Big Boogie nel cervello, Big Booty, penso a quello. Non parlarmi la testa dura perché ragiono con il pisello. Sto quartolino, scuola, muretto, fuori dalla classe ma con un netto. Fuori di testa ma dentro se troie fuori in testa per divertimento. 126 più Dark Polo, tu sta buono, sei un gran pollo. Amatori hanno le peroni, tu torna a casa beve dei midori. Menzana, corpo resana, 200 gocce in corpo Xanax. Senti il colpo come se sballa, 126 figli di puttana. 1, 2, 3, 4, sto sempre fatto. La notte chiama i miei occhi di gatto. Sto sempre in strada nero come l'asfalto. 1, 2, 6 è la data in cui schiatto. Ti ammazza se gli pesti le Balenciaga. Rapper sparlano di strada, stanno chiusi dentro casa. Non sto parlando di calcio ma ucciderei per la mia squadra. Ho 50 seni con me in caso qualcosa non quadra. In giro nel traffico, erba dentro i miei boxer a quadri. Io e me stiamo pensando ai soldi, siamo concentrati quindi non distrarci. Mangio questi rappers come stessimo giocando a dama. Non prendo MD, passa quella merda che dama. Sto fumando push, sto così alto, sto nel Valhalla. Voglio soldi da comprare una casa a mia mamma e fottermi tua mamma. 126, triplo 7 è la banda. 126, triplo 7 è la banda.